Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, a grande richiesta sine qua non, cari radioascoltatori. Ebbene, oggi parleremo di aceto, un argomento di cui si parla di rado, ma ormai anche nei ristoranti quando si entra si vedono dei vassoi con 10, 12, 15 tipologie di aceto, anche se per fortuna ancora non esiste la carta degli aceti, perché sennò carta degli oli, carta delle acque minerali, carta dei caffè, insomma ci manca la carta degli aceti, però sicuramente dovrebbero avere un posto come hanno gli oli e come hanno tutti gli altri prodotti, appunto, che sono utilizzati sia a tavola che in cucina. Oggi parleremo di questo argomento perché il campo degli aceti è molto vasto e credo che ci sia anche molta, ma molta confusione. Per questo iniziamo con un grande esperto che è Giovanni Masini, un enologo appunto che opera nel settore degli aceti, per vedere di capire un po' in questo mondo di DOP, aceto balsamico tradizionale di Modena e di Reggio Emilia, di IGP aceto balsamico di Modena e poi ancora gli aceti di vino, gli aceti sopraffini, gli aceti ottenuti dai frutti, insomma un grande mondo degli aceti. Buongiorno a Giovanni Masini. Ah, buongiorno, buongiorno. Allora facciamo un po', Masini, un quadro. Si può chiamare tutto aceto? Sì, il quadro in effetti ha bisogno di essere un po' chiarito, perché con aceto si intende il prodotto base, che diciamo che è l'aceto di vino, quello che viene usato più comunemente, e la legge è il prodotto della acetificazione di fermentati vegetali, quindi può essere anche di frutta. L'importante è che sia un aceto che vada secco, come si dice in modo tecnico, cioè che non abbia residui zuccherini e che non abbia residui alcolici. Ecco, ricordo, numero verde 800 24 00 24 per chi volesse intervenire o chiedere dei chiarimenti, messaggi SMS 349 238 6666. Ecco, lei ha ricordato l'aceto di vino e volevo chiederle, facciamo la differenza appunto tra aceto di vino e aceto balsamico. Tra l'altro è un errore chiamarlo aceto il balsamico, perché è solo balsamico. Non c'è un processo di acetificazione tradizionale come quello per il vino? Sì, nel settore dei balsamici forse la parola aceto è la parola meno propria, è la parola più sbagliata, che però fa parte della denominazione, quindi fa un po' di confusione nel settore. Diciamo che i balsamici si distinguono totalmente dall'aceto di vino, dall'aceto normale, per la presenza di il mosto d'uva cotto, mosto di uva concentrato, che quindi li ammorbidisce, gli dà questo tono molto più rotondo. Però bisognerebbe fare una distinzione ulteriore, perché i balsamici li dividiamo con l'approvazione dell'IGP del Modena in due grosse categorie, che sono le IGP aceto balsamico di Modena e le DOP, il punto più alto della tutela della qualità, aceto balsamico tradizionale di Modena e aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia. Sono le due punte più alte del prodotto tradizionale e invecchiato. Ecco, l'aceto sopraffino invece? Ecco, qui entriamo invece in un ambito di ricette, di tradizioni legate alle famiglie, dove la ricetta non fa parte di un disciplinare approvato dalla comunità europea e dalla legge, ma fa parte di una ricetta familiare, in questo caso della casa d'este, dove i ritmi seguono quello che veniva scritto dal Messisburgo, cioè dal grande cuoco di corte, e quindi si differenzia per un'origine legata alla famiglia e all'azienda in questo caso, mentre nelle DOP ci si differenzia per i livelli legati all'invecchiamento, i 12 anni per minimo per i prodotti tradizionali e i 2 mesi o 3 anni per l'IGP Modena. Ecco, sentiamo un radioascoltatore, Roberto dalla provincia di Savona. Buongiorno Roberto. Buongiorno, senta, io volevo chiedere questo. Io l'aceto lo faccio in casa con il vino buono, eccetera, quello che si avanza magari quando vado a comprarlo, eccetera. Lo lascio nei bottiglioni o nelle bottiglie un po' mezzo aperto, un annetto, eccetera. E poi, ecco, volevo sapere se va bene. Poi quando c'è la madre che si forma un pochettino di malmetta in fondo, la madre bisogna ogni tanto pulirla, lavarla, sostituirla o cosa fare? il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di aceti al plurale, perché sicuramente sono tanti come abbiamo visto, ma sentiamo un altro radioascoltatore prima di chiedere a Masini la risposta. Massimo da Milano, buongiorno Massimo. Sì, buongiorno. Senta, Davide Paolini, volevo chiedere una cosa. Io ho un aceto che mi ha dato un mio amico e la chiamiamo l'aceto del Carlo perché aveva la madre, il suo papà, che oramai è morto da più di 20 anni, ed è buonissimo. Quando arrivo alla fine, se io metto dentro, non so, del vino, non è che poi faccia male, possa essere tossico, bene, tanto che è così vecchio. Bene, grazie Massimo. Sentiamo Masini, queste due risposte. Masini. Sì, sì, sì. Ma innanzitutto le domande denotano il fatto che il prodotto aceto è estremamente legato alla tradizione, alla storia di tutte le famiglie italiane, perché il fatto che noi chiamiamo questo velo di batteri acetici madre lo lega tantissimo alla nostra storia, alle nostre famiglie. E vorrei dire che le madri vanno tolte quando occupano tutto lo spazio all'aria dei vaselli o delle damigiane, vanno tolte, lasciate solo delle piccole parti per permettere la presenza dell'ossigeno e l'acetificazione. Il vino si può usare, e magari con qualche attenzione, perché i vini convenzionali certe volte contengono troppa anidride solforosa che inibisce l'acetificazione, quindi userei vini d'agricoltura biologica che normalmente sono un pochino più bassi e più facili da trasformare. Bene, io la ringrazio Masini, grazie del suo intervento. Ricordo il numero verde 800 24 0024, sms 349 238 6666. Bene, ora parleremo di aceto balsamico tradizionale di Modena e ne parleremo con Mariangela Montanari. Buongiorno Mariangela, che è produttrice nonché una grande esperta del settore. Buongiorno Mariangela. Buongiorno Davide, ciao. Allora, abbiamo parlato appunto, Masini ci ha fatto una panoramica. Entriamo nella DOP del aceto balsamico tradizionale di Modena, che c'è anche quello di Reggio Emilia, per carità, perché tutte e due hanno ottenuto la DOP. Chiariamo, perché non vorrei, poi sentiremo anche qualcuno che parlerà di questo. Che cosa contraddistingue rispetto ad esempio al tradizionale, il tradizionale invece, il balsamico tradizionale di Modena rispetto al balsamico di Modena? Allora, parliamo di due prodotti che appartengono a due categorie marceologiche diverse, perché l'aceto balsamico tradizionale di Modena è un aceto di nome, ma non di fatto, perché non viene dal vino come tutti gli aceti, ma viene dal mosto cotto, succo d'uva pigiato, cotto e poi invecchiato in serie di botti di legno diverse, volume decrescente per lunghi anni, tramite una tecnica particolare di travaso e rincalzo. Quindi la grossa discriminante che distingue l'aceto balsamico tradizionale da un aceto, anche balsamico, è il fatto appunto che derivi solo ed esclusivamente dal mosto cotto. Quindi questa è la grandissima differenza. Mosto cotto di uve tipiche modenesi, per il tradizionale di Modena ovviamente, uve tipiche reggiane per il tradizionale di Reggio Emilia, e per Modena sono principalmente il Trebbiano e i Lambruschi, il Trebbiano modenese e i Lambruschi. Ecco, vogliamo anche dire che esiste un aceto balsamico tradizionale di Modena di 12 anni e uno di 25. Esatto, sono le due categorie nel quale si può vendere il prodotto più giovane deve essere invecchiato tramite questa tecnica particolare di travaso e di rincalzo almeno 12 anni, mentre per l'extravecchio parliamo di invecchiamento di almeno 25 anni. Sottolineo sempre la parola almeno, perché è il numero minimo di anni che è stato definito per avere determinate caratteristiche merceologiche sul prodotto. È chiaro che organolettiche e gustative. Tutto il prodotto, prima di essere commercializzato, viene assaggiato da una commissione di degustazione e solo il prodotto che passa questa commissione di assaggio viene poi imbottigliato nella bottiglia tipica di legge del tradizionale di Modena, bottiglia da 100 ml, dalla classica forma panciuta con il collo largo. Bene, credo che sia una bottiglietta disegnata da Giugiaro. Grazie a Mariangela Montanari della Ca dal Non, quindi dimostra diciamo la tradizione di questa azienda. Sentiamo Leo da Roma, buongiorno Leo. Buongiorno signor Davide, senta, le volevo fare una domanda. Io sono un amante dell'aceto, la adoro molto. Perché l'aceto costa meno del vino essendo un derivato? Beh, io credo che ci siano aceti che costano meno, ma come vedremo nel corso della trasmissione ci sono anche aceti di vino molto pregiati che sicuramente non costano pochino, sicuramente. Poi magari se c'è qualcuno che vuole dare una spiegazione ancora più tecnica, ben volentieri può intervenire 800 24 0024, però come ogni settore ha chi costa di più e chi costa di meno. Sentiamo un altro radioascoltatore, Cesare da Trieste. Buongiorno Cesare. Buongiorno, io sono uno, come ne avete sentito già, di quelli che l'aceto se lo fanno da soli in casa. E siccome faccio già un buon aceto, anche una botticella di rovere in cui invecchiarlo un po', l'ho travaso diverse volte, volevo sapere se c'è un esperto che mi può dare ulteriori consigli per fare un aceto sempre più buono. Beh, io credo che il nostro Masini abbia dato una serie di indicazioni a due radioascoltatori che chiedevano appunto delle indicazioni molto particolari sulla madre e anche sull'invecchiamento. Quindi credo che, vabbè, poi magari ci ritorneremo, perché sicuramente vedo che ci sono anche altre domande di questo tenore, sempre dell'aceto di vino fatto in casa. Sembrava sparito l'aceto di vino, perché non si trova, poi in realtà si trova difficilmente, però sembra che invece in casa sia una consuetudine. Bene, prima il nostro Giovanni Masini ha parlato anche di aceto sopraffino degli estensi. Ebbene, abbiamo con noi il produttore di questo aceto molto particolare, con una lunga storia e tradizione, Andrea Czarnowski Lucheschi, spero di aver pronunciato bene il nome, che appunto produce aceto sopraffino degli estensi. Buongiorno. Buongiorno dottore, buongiorno. Ho pronunciato bene il suo nome, perché insomma non, non è... l'ha pronunciato bene. Ecco, grazie. Allora, abbiamo parlato di aceto sopraffino degli estensi, quindi di una tradizione della casa d'Este. Cos'è questa, diciamo, questa tradizione? Cos'è questo aceto particolare? Allora, è il vecchio sistema che era stato inventato nella casa ducale estense sin dal XV secolo, e consiste in una produzione di aceto fatto da mosto crudo di uve rosse. Era un sistema peraltro che veniva utilizzato a Ferrara in quell'epoca, di cui poi il Cristoforo Messisburgo, che è stato scalco di casa, ha sviluppato e messo a punto questa ricetta che poi ha continuato nella casa ducale fino al 1860, con alterne vicende, quando poi con l'arrivo di Savoia a Modena hanno prelevato tutta l'acetaia ed è stata portata a Moncalieri, e di là poi non è stata continuata questa tradizione, che si è persa. Noi della famiglia abbiamo deciso di riprendere questa tradizione, di riportarla, aggiornarla ad oggi, affinché poi i consumatori la possano apprezzare. Ecco, mi sembra di capire che le differenze sono di mosto crudo rispetto all'aceto balsamico tradizionale, esatto. Non solo, e mi sembra anche l'altra differenza, che sono bacche rosse, uva di bacche rosse, sì, e non bacche, sì, bianche, come molto spesso viene utilizzato. Allora le chiedo anche questo, così, una curiosità: degli amici appassionati di cocktail mi hanno raccontato che questo aceto viene usato anche per i cocktail, ma è vero o è una leggenda, sì, metropolitana? No, è vero, la cosa è nata per puro caso, perché noi stavamo facendo uno studio organolettico del prodotto per poterlo abbinare poi nelle varie tipiche ricette regionali, e uno chef mi ha segnalato questo fatto, che il prodotto poteva sposarsi molto bene come condimento su un cocktail, in particolare Bloody Mary. E da lì poi abbiamo iniziato a fare uno studio, l'abbiamo esteso facendo delle varie prove, e abbiamo visto che effettivamente, usandolo al posto delle tradizionali salse, peraltro straniere o americane, si possono ottenere dei risultati veramente notevoli, per esempio sui Manhattan, Rob Roy, Dry Martini anche, perché dà una nota di speziatura al cocktail, che lo insapidisce, rendendolo poi anche molto innovativo. Ecco, un'ultima cosa, ma esiste un disciplinare dell'aceto sopraffino degli estensi oppure non? Esiste un disciplinare, esiste un consorzio che è stato fatto per la tutela di questo prodotto, perché è un prodotto estremamente artigianale e vogliamo che rimanga tale, non vogliamo che poi... Bene, allora lo ricordo, aceto sopraffino degli estensi, Czarnowski Lucheschi, il produttore appunto. Di dove? Dove lo producete questo aceto? Noi lo produciamo a Quarto d'Altino, oggi per una questione storica l'azienda non è più né a Ferrara né a Modena, ma è vicino a Venezia, a Quarto d'Altino, ma è sempre appunto la famiglia che lo produce. Grazie. Sentiamo Camillo da Roma, buongiorno radioascoltatore. Buongiorno, io vorrei un'informazione. mi è capitato di comprare dell'aceto a un discount, per cui sicuramente di non eccessiva ottima qualità. Dopo un po' di tempo questo aceto mi ha fatto la madre. Adesso mi è chiaro di aggiungere del vino di tanto in tanto, e io è un po' di tempo che mi faccio l'aceto con questa madre. Ma è normale, è possibile che un aceto di non eccellente qualità faccia questa cosa? Ma certo, è il processo di acetificazione, quindi sicuramente continui a usare questa madre, e poi non so se la qualità è inferiore ad altro, magari compri un aceto di vino e controlli con un altro aceto di vino per capire se è meglio o peggio, è difficile dirlo teoricamente. Grazie a Camillo. Sentiamo, ora abbiamo con noi Gianni Castellani, che è un apicoltore appunto di Monte Branzone in provincia di Modena. Bene, lui produce un miele aceto, vero? Gianni, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Gianni Castellani. Sì, lei produce miele aceto? Sì, miele aceto. Di che cosa si tratta? Ce ne può parlare? Allora, il miele aceto si tratta di una vecchia ricetta del nostro Pennino, delle nostre nonne, che facevano una salsina da mettere sui bolliti. Questa salsina, cioè, mi ha dato l'idea di mettere insieme due prodotti tipici di Modena, un buon miele e un buon aceto balsamico. Di Modena, noi siamo la patria del balsamico, e abbiamo guardato di trovare questo sistema di miscelazione a freddo, al naturale, di cui abbiamo, diciamo, ben felici di essere raggiunto questo scopo. Abbiamo brevettato tutto e ci sta facendo un po' le fiere principali in Italia per farlo conoscere. Senta, dove viene utilizzato? Dove lo consiglia lei l'utilizzo di questo aceto? Il miele aceto è un esaltatore di aromi, detto in due parole, un esaltatore, in poche parole, va bene dappertutto, al fuori che sull'insalata. Mi spiace, ma si sente, abbiamo sentito l'insalata, si sente malissimo. Pronto. Sì, Castellani, si sente malissimo, mi spiace, abbiamo capito che viene usato nell'insalata. Grazie, però non riusciamo a capire. La ringrazio, sentiamo Paolo da Livorno. Buongiorno Paolo. Buongiorno Davide, senta, io faccio una domanda forse banale. Dunque, io uso aceti così che si comprano nei supermercati, quelli normali, ecco, c'è scritto di vino. Vorrei sapere, ecco, una volta aperta la bottiglia, quanto dura l'aceto? Ma io credo che duri parecchio tempo, a meno che non si lasci sempre aperto la bottiglia, magari alla luce o ad altro, però cioè l'aceto ormai il processo l'ha già avuto di acetificazione, quindi non credo che succeda niente di particolare. Grazie a Paolo da Livorno. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di aceto, anzi, come ho detto prima, di aceti, perché abbiamo visto che sono veramente tanti. Abbiamo in linea da lungo tempo un radioascoltatore, sentiamo Redento. Buongiorno Redento. Buongiorno a te. Senti, ho avuto una lunga esperienza con questo aceto balsamico tradizionale di Modena, e sono nel notecario di Desio, provincia di Monza, Brianza, e devo dire che contro i 6 gradi di acidità che ha l'aceto di vino mediamente, questo di Modena ha dai 9 ai 13 gradi, e nonostante questo fatto ha un effetto tampone sulle mucose intestinali, mentre l'aceto balsamico normale e l'aceto di vino hanno invece la possibilità di distruggere la flora batterica. Una cosa interessantissima è che ho rilevato negli anni che chi è allergico all'aceto di vino non è allergico all'aceto del balsamico tradizionale. Redento, scusami, ma la differenza è evidente, perché l'aceto balsamico tradizionale non è un aceto. Quindi sicuramente gli aceti, la parola stessa, insomma, parla indirettamente di acidità. L'altro è un balsamico, dovrebbe chiamarsi balsamico perché non subisce il processo di acetificazione, come ci è stato detto. Quindi sicuramente è comprensibile questo. Grazie a Redento. Sentiamo Paolo da Roma. Buongiorno Paolo. Sì, buongiorno. Dimmi. Allora, una domanda, io ho insomma un po' cercato di farmi un po' l'aceto da me, insomma, non riuscendoci, ma poi ho capito che la maggior parte dei vini sono tutti pastorizzati, comunque stabilizzati dal punto di vista microbiologico. dico, c'è un modo per poter ovviare, essendo, come dire, provare a farlo, oppure bisogna per forza reperire i vini artigianali comunque fatti in maniera così bene, molto terra terra, come si dice, cadi a fagiolo, perché abbiamo da no, con noi Oscar Giaccone. Oscar Giaccone, figlio del grande Cesare Giaccone, cuoco famosissimo, di Alberetto della Torre. Ebbene, Oscar ha preso dal padre, diciamo, questa tradizione di produrre aceto, e produce dei grandissimi aceti di monovinace. Buongiorno Oscar. Buongiorno Davide. Ecco, Oscar, tu hai sentito questa telefonata di questo nostro radioascoltatore che diceva appunto che con i vini che si trovano così in circolazione è difficile. Noi partiamo da grandi vini, quindi si va nel processo di acetificazione partendo con vini di altissima qualità, sì. Quindi tu non prendi i vini che sono così, diciamo, che costano 0,90, ma prendi... No, tutti i vini da grandissimi produttori e che siano certificati all'altezza per poter fare un grande aceto, sì. Ecco, tu produci, tra l'altro, vini ottenuti da, cioè, monovinace della tua area, del Piemonte. Io ho due aceti rossi, l'aceto di Barolo e l'aceto di Barbera, e poi l'aceto di Arneis e l'aceto di Moscato, sì. Ecco, ma l'aceto di vino, perché tutti mi lamentano che è difficile trovare in giro l'aceto di vino. Diciamo che il mercato li chiede ancora, gli aceti di vino? È un mercato molto molto interessante. Tra l'altro noi abbiamo una piccolissima produzione, però un mercato abbastanza internazionale, che va dall'America al Giappone, all'Australia, e poi l'Italia, il Nord Europa... Ed è una cosa che mi appassiona moltissimo, Davide, veramente. Ecco, tra questi aceti vanno più quelli di, diciamo, di bacche bianche o di bacche rosse? Ma quello a seconda dell'utilità in cucina, perché ad esempio se si fa una bella selvaggina con l'aceto di Barolo, allora sì, vengono fuori i profumi e tutte queste cose qui. Se si fa un'ostrica cruda con l'aceto di Moscato sopra, è un'esplosione di freschezza, una cosa... bellissima, sì. Ecco, c'è qualche uso inusuale che anche tuo padre faceva magari in cucina oppure su qualche piatto dell'aceto, magari combinato con un piatto inaspettato? Ma questo sorbetto all'aceto di rosmarino e all'aceto di moscato e rosmarino, che è una cosa molto molto particolare, sì, che dopo il pasto aiuta anche un po' la digestione, tutte queste cose qui, sì. Bene, io ringrazio Oscar Giaccone, lo ripeto, e al Baretto della Torre, produce appunto questi oli, questi aceti straordinari, e diciamo che ha continuato l'attività del padre, che ora Cesare si è spostato a Fontana Fredda, il grande, grandissimo Cesare. Grazie Oscar, a presto. A presto. Ricordo, numero verde 800 24 00 24. Abbiamo con noi, ecco, abbiamo parlato di aceti anche molto particolari. Abbiamo Francesco Mauris, che è titolare, sì, dell'azienda agricola Dus Valais alla Magdalene e Aosta, che produce aceti di more, ribes, lamponi e mirtilli. Bene, è facile ottenere questi aceti da questi frutti, Francesco? Buongiorno a tutti, innanzitutto. È facile, noi ci abbiamo messo 5 anni per fare, ecco, il primo appunto aceto di lamponi. L'ho detto apposta io questo. E siamo partiti con l'aceto di lamponi, poi il mirtillo, ribes nero e per ultimo la mora. Ho sentito parlare prima di un buon vino, noi dobbiamo fare un buon vino di, se possiamo chiamarlo così, di frutta. Ecco, appunto, se no non si riesce a ottenere un grande aceto. Esattamente. Senta, ma questi aceti così particolari, come vengono usati? Beh, quello di lamponi, diciamo che è il più comune, ma di mora e ribes, con quali accostamenti vengono utilizzati? Ma sono molto versatili come aceti, dipende un po' dai gusti, dai profumi che danno, diciamo, dipende un po' dalla scelta, diciamo, delle persone. Ci sono quelli che preferiscono il ribes nero, altri che vanno sul lampone perché è più profumato, altri che il mirtillo dicono che assomiglia un po' al vino, e ci sono delle varie sensazioni, e poi uno si affeziona più a un aceto che all'altro, ecco, diciamo così. Ecco, come vengono messi specialmente nelle insalate, forse questi? Sì, insalate, lamponi, sentivo prima parlare di ostriche, anche noi lo usiamo con lo scalogno, il vino bianco, un bianco frizzante, logicamente. Ci sono varie ricette che si stanno un po' sbizzarrendo i nostri chef anche qui in valle con i nostri aceti, diciamo così, si fanno ovviamente piacere. Ecco, ma immagino che la produzione sarà limitata, perché ottenere degli aceti da questi frutti non se ne possono ottenere grandi quantità, immagino. Sì, la la nostra produzione rasenta, diciamo, facciamo delle confezioni da 250 ml e la nostra produzione annuale sono circa 20.000 bottiglie al momento. E diciamo che fino a un po' di tempo fa il 90% della nostra produzione andava in Inghilterra. Ah, bene, quindi siamo più conosciuti quasi all'estero, anzi all'estero, che non in Italia, purtroppo, diciamo così. Bene, io ringrazio Francesco Mauris, azienda agricola Dus Valais. E ora torniamo sull'aceto balsamico tradizionale, questa volta di Reggio Emilia, per essere così equilibrati, non vorrei appunto fare dei torti a nessuno. Sentiamo Carlo Ferretti, presidente del consorzio aceto balsamico appunto tradizionale di Reggio Emilia. Buongiorno Ferretti. Buongiorno dottor Paolini. Senta, par condicio. Allora, le chiedo, che differenza passa tra il vostro e quello di Modena? Ma Dio, la differenza dovrebbe essere data solamente dalle confezioni, perché tutto il resto viene fatto nello stesso modo, quindi i due prodotti dovrebbero essere molto simili, differenze non ce ne sono, insomma. Quindi sicuramente diciamo che hanno pari grado, diciamo così, ma delle sfumature ci sono, sì, che io credo, perché tra l'altro un aceto balsamico di una casa cambia con quello di un'altra per appunto certi segreti di produzione, l'uso dei legni. Nella stessa acetaia ci sono delle differenze. No, l'unica differenza che ci può essere è che noi altri presentiamo tre qualità di prodotto con tre invecchiamenti diversi, a differenza di Modena che è in bottiglia il 12 anni e l'extra vecchio. Invece noi? Invece noi imbottigliamo un boccettino con contrassegnato da un bolino aragosta che ha 12 anni, uno contrassegnato dal bolino argento che ha dai 18 ai 20 anni e l'altro extra vecchio che ne ha oltre 25. Bene, la ringrazio, grazie a Ferretti. Sentiamo Ivana da Rimini, una radioascoltatrice, buongiorno. Buongiorno, sto ascoltando la vostra trasmissione e un suggerimento volevo dare a tutte le donne e anche agli uomini che si curano della casa di pulire l'acciaio e le ceramiche con l'aceto, perché veramente si preserva l'ambiente senza usare tanti prodotti chimici e il lungo andare. Io ho già 30 anni che pulisco così con queste cose e non ho mai rovinato né una superficie d'acciaio né una ceramica nella mia casa. Senta Ivana, ma non lo fa con l'aceto balsamico tradizionale? No, non lo faccio esattamente. Sto ascoltando tutta la vostra trasmissione, apprezzo veramente l'aceto balsamico, l'aceto di vino. Anche noi a casa abbiamo il modo, cioè ce lo facciamo da soli, quindi è veramente, io trovo che l'aceto è utile in casa, in qualsiasi situazione. Bene, poi torniamo ancora dietro alle nostre nonne che si lavavano l'ultimo lavaggio dei capelli e lo facevano con acqua e aceto per mantenerli lucidi e belli. Certo, quindi abbiamo visto ci sono utilizzi anche diciamo fuori cucina molto interessanti. Io ringrazio Ivana da Rimini. Il gastronauta. Aceti, sempre aceti, fortissimamente aceti. Bene, continuiamo in questo giro. Sempre per par condicio, anche se lo ha ricordato all'inizio di questa trasmissione Giovanni Masini, vorrei ricordare che esiste la DOP aceto balsamico tradizionale di Modena e di Reggio Emilia, ma esiste anche l'IGP, è la più recente IGP, credo, italiana ottenuta appunto dalla Comunità Europea, dell'aceto balsamico di Modena. Quindi par condicio, perché esistono anche questi prodotti in vendita, quindi anche questi hanno una storia e una loro tradizione prevalentemente modenese come l'altro prodotto. Continuiamo a parlare appunto di aceti. Ora voglio parlare di un qualcosa di particolare. Voglio andare nel Chianti, a Radden Chianti, da Martino Manetti. Buongiorno Martino. Buongiorno Davide. Voglio ricordare un prodotto che mi ricorda molto suo padre, un personaggio straordinario che grazie. Nel Chianti è stato uno sicuramente dei protagonisti della grande rinascita, perché amava molto questo prodotto che è l'agresto di Vinsanto. Martino, esatto. Ci vuoi spiegare cos'è l'agresto di Vinsanto? L'agretto, esiste anche l'agresto, sì, è l'agretto. Esatto, un'altra cosa. È un prodotto fatto con un Vinsanto praticamente venuto male, parliamoci chiaro, cioè un Vinsanto che quella volta insomma che si inventò questo prodotto non fu ritenuto all'altezza di essere commercializzato e Gioacchino Nannoni, il distillatore che per noi fa anche la grappa, propose a mio padre di inviare questo Vinsanto per trasformarlo in un aceto particolare. con un procedimento di acetizzazione con degli acidificatori posti sulle pendici del Monte Amiata, quindi un'atmosfera molto particolare, e poi un invecchiamento in diversi tipi di legno, tra i quali il ciliegio, il rovere, il castagno, il cipresso, il ginepro. Alla fine viene fuori un aceto che non è un aceto, cioè un aceto dolce praticamente. Questo aceto è un prodotto più indicato quasi per cucinare che per condire, perché conferisce dei sapori dolci particolari, ecco. Una cosa volevo chiederti, voi come lo utilizzate come accostamento? Dunque, su un'insalata può andare bene, certamente, ma più che altro, per esempio, personalmente lo uso quando devo cucinare una bella fetta di carne in padella, per esempio, ecco, lo uso per fare il fondo. Ho capito. Bene, Martino, grazie all'Agretto di Vinsanto, quindi l'Agretto prodotto dall'azienda Manetti di Radda Inchianti. Bene, sentiamo Marco da Milano, un radioascoltatore. Sì, buongiorno Davide. Io volevo intervenire praticamente più o meno su quello che è stato detto proprio adesso, cioè sull'utilizzo del balsamico, che spesso viene, secondo me, utilizzato a torto in alcuni tipi di insalate, che invece dagli amici di Modena e non so di Reggio Emilia viene usato molto meglio, non so, nelle carni, sui risi, eccetera. Ecco, sì, sulle insalate è uno spreco, io sono d'accordo con te, sulle insalate è veramente uno spreco, perché dovrebbe essere utilizzato altrimenti, perché uccide, cioè ha un sapore molto, molto importante, quindi sulle insalate credo che vadano molto meglio degli aceti di vino o degli aceti di frutta. Grazie a Marco da Milano. Bene, siccome abbiamo parlato anche di piatti, abbiamo con noi Grazia Soncini, che è la titolare della trattoria La Capanna di Eraclio a Codigoro, e qui parliamo di anguilla, parliamo soprattutto. È vero, Grazia? Sì, buongiorno dottor Paolini. Sì, l'aceto da noi nella nostra zona c'è una lunga tradizione di pesce marinato, l'anguilla marinata è quella che si fa marinata in questo periodo, quindi anguille grasse e poi che andranno poi consumate nel periodo di Natale e nel periodo di Capodanno. Quindi diciamo che poi ci sono anche le sarde in Saor, quelle sono più verso il Veneto, ma ecco, quindi cioè l'aceto è un qualcosa che è di importante, diciamo, come il sale, come tanti altri prodotti, per conservare certi tipi di cibo. Certo, sì, una volta veniva usato per la conservazione, quindi per protrarre, diciamo, l'uso di un prodotto. Adesso è per fini un po' più raffinati, quindi per poter assaggiare dei prodotti. Quindi adesso, diciamo, nella nostra zona, c'è nella costa del Delta del Po, c'è una lunga tradizione, come dicevo, che va dalla zona di Comacchio alla zona di Chioggia. Io ritengo, diciamo, il prodotto proprio più emblematico è l'anguilla. Poi comunque commercialmente si possono trovare anche adesso le acquadelle marinate. L'acquadella è un latterino, il pesce latterino che si pesca appunto in questo periodo e viene fritto e marinato, e quindi poi si può trovare in commercio come l'anguilla. Ecco, diciamo che lei è stata troppo buona, perché ora l'aceto, ci sono certi posti che viene utilizzato anche per far rinsavire certi prodotti o certi piatti. Grazie a Soncini. Bene, continuiamo questo giro e ora andiamo in Alto Adige, andiamo da Joseph Reitner, che produce oltre 20 tipi di aceto, da partire dalla frutta ma anche miele e birra. E Reitner, è così, diciamo, facile far diventare, cioè produrre aceti appunto con frutta e con tanti altri prodotti? Beh, non è così facile produrre dalla frutta l'aceto. Prima dobbiamo fare un grande succo della frutta senza incidenti batterici, riportare quel succo in un prodotto fermentato e dopo trasformare quell'alcol che abbiamo ottenuto in acido acetico e lasciar stare tutta l'aroma della frutta anche dentro nell'aceto. Ecco, Joseph, lei produce anche aceto di birra, se non erro. Sì, io procuro tutta la materia base per fare questi aceti. Abbiamo un'acetaia, siamo due matti in Europa, e l'acetaia ce l'abbiamo o in Francia o in Germania, e dopo riportiamo il prodotto elaborato qua da noi per la distribuzione sul campo nazionale. Ecco, lei ha detto che siete due matti, chi è l'altro matto? L'altro matto è Robert Bauer, che è vicino a Heilbronn, a Stoccarda. Bene, grazie a Joseph. Io ho qualche secondo, sentiamo Ivan se non è lungo perché poi devo chiudere. Buongiorno Ivan. Buongiorno, cerco di essere brevissimo. Io volevo solo fare un appunto di questo tipo. Esistono degli aceti non tradizionali, balsamici, con coloranti e conservanti. Sì. Un conservante dell'aceto mi sembra una contraddizione in termini, primo. E secondo, perché chiamarlo aceto balsamico? Beh, infatti l'ho detto anch'io che non è un aceto, purtroppo è ormai anche la denominazione è stata data in questa maniera, secondo me crea veramente molta confusione perché si dovrebbe chiamare solo balsamico, ma sa, chiamarlo balsamico poi avrebbe voluto così suggerire a molti la farmacia probabilmente, e quindi è andata così, ma io sono d'accordo con lei su tutti e due i punti. Bene, ringrazio Ivan da Reggio Emilia con questo punto finale molto interessante. E ora la linea al riposo del guerriero.